663. Budino di ricotta. Ricotta grammi 300, zucchero in polvere grammi 100, mandorle dolci grammi 100 e 3 o 4 amare. Uova numero 5, odore di scorza di limone. Sbucciate le mandorle nell'acqua calda e pestatele finissime nel mortaio con una delle chiare delle uova suddette. Mescolatele bene con la ricotta, passando prima questa dall'ostaccio, se fosse troppo dura o bozzoluta. Aggiungete lo zucchero e le uova, dopo averle frullate a parte, e versate il composto in uno stampo da budino che avrete prima unto col burro e cosparso di pan grattato. Cuocetelo in forno o tra due fuochi, in un fornello, e servitelo freddo. Può bastare per 6 o 7 persone.